perfidissime stelle, a che mi giova l'indica d'Oriente sì famose contrade e tanti regi tributari vedermi al pie regnante? Se qual mi riconosco nelle sventure a un mio vassallo. E se io il cruccio del tuo cuore sanar potessi, buon rege? In man sicura, piaga già imputridita. Eppur m'accuserò. Ai, che l'onore, tocco da impura mano una sol volta, lavar non puossi che col sangue. Il sangue? Arterio cor, quant'anque io fossi quel che sul tuo onore. Argippo ora noi vien, solo mi lascia. In breve del rimedio e del male l'istoria ti dirò. Parto, obbedisco, più che mi c'è.